possibilità della loro rovina. Ha fatto tutto quello che era divinamente possibile. Maligno. Ti comporti. Nei tuoi vaneggiamenti. Come un vecchio filosofo. Padre Mondrone. Accetto. Dal momento che Dio ci ha amato fino al punto di darci il sangue e la vita del figlio suo. Non c'è più obiezione possibile contro l'immensità e l'universalità del suo amore. È vero che nello stesso momento in cui ci faceva un così grande dono, vedeva quelli che avrebbero rifiutato la sua salvezza e li ha creati ugualmente. Più egli moltiplicava gli aiuti, più aumentava la libertà del male e, di conseguenza, la gravità stessa del male in coloro che coscientemente rifiutavano quegli aiuti. Ma cresceva anche maggiormente la profondità della salvezza per coloro che l'accettavano e che si accorgevano da quale male eterno li preservava la redenzione. Voi dannati. Mentre manifestate il carattere sacro e drammatico della nostra esistenza. Ci aiutate a comprendere meglio il dono divino della salvezza. Se tu, tentatore, non avessi spalancato le cateratte del male e del peccato nel paradiso terrestre, noi uomini non saremmo mai riusciti a comprendere fino a che punto Dio ci ama. È per questo che la Chiesa ci fa paradossalmente cantare «O felice colpa di Adamo!» Maligno. E così mi sarò guadagnato la maggior parte delle creature da lui così amorevolmente redente. Padre Domenico? La maggior parte? Dio solo sa quanti si ostineranno a restare tuoi. In ogni caso la tua vittoria sarà la tua sconfitta? Perché quante più anime porterai all'inferno, tanto più grande e tormentoso sarà l'inferno e tanto più orrendo il tuo dolore. La vi regalerete dolore a vicenda. E per sempre. E questa la tua vittoria? Da allora il mio interlocutore per parecchio tempo non si fece più vivo. Nono, un pianto senza fine. L'occasione più unica che rara di incontrarmi con siffatto interlocutore mi fece nascere la curiosità di conoscere sempre qualcosa di più su quel personaggio. Nei precedenti incontri avevamo parlato di varie cose. Ma molte di queste gliele avevo strappate con forza. Ricorrendo sempre all'intervento onnipotente di colei che lo obbligava a rispondermi. In quei giorni stava circolando un certo film gravemente offensivo per la figura di Gesù. Neanche durante la sua vita terrena e nemmeno nelle ore della passione. Quando fu abbandonato al potere delle tenebre. Cioè al potere di Satana. Furono inventate accuse così nefande contro la sua vita purissima. Pensai allora che forse proprio questo film avesse indotto l'Immacolata Madre di Dio a costringere l'infame maligno a gettare la maschera. Non era così facile preparare una serie di domande e provocarne la risposta. Un giorno. Però. Dopo aver molto pregato. Al primo sentore della sua presenza. Provai a comportarmi con lui da giudice inquisitore. Con questo intento. Prima che egli cominciasse con i suoi discorsi. Gli posi a bruciapelo questa domanda. Che cosa pensi di coloro che sono o sembrano molto intelligenti e tuttavia negano l'esistenza di Dio e quella di voi angeli ribelli? Con mia grande sorpresa rispose. Sono soltanto degli insensati. Lo incalzai allora con un'altra domanda. E che dici di quelli che negano l'ossequio a Dio non piegando la loro volontà? Capì che alludevo specialmente al fatto della loro ribellione demoniaca e rispose. Abbiamo voluto rivendicare la nostra libertà da lui. Spiegami che cosa significa questo. Esseri come voi. Che dinanzi a lui siete niente. Che cosa speravate di ottenere con questa ribellione? Invece di rispondere. Lo sentii mugolare come una bestia crudelmente ferita. Mi fece chiaramente capire di non insistere su questo argomento. Capì che la sua risposta non poteva essere che tragicamente negativa e comportava una tortura che si rifiutava di manifestare. Pensando poi alle sofferenze che infligge a tante povere creature. Anche innocentissime. Delle quali talvolta prende possesso. Gli chiesi. Come osi fare questo con anime che sono tempio di Dio? Tabernacoli di Cristo. Dimora della SS. Trinità. Sono esseri che Dio ha creati per sé e abitando in essi diventa come una cosa sola con loro. Come puoi fare questo? Rispose prontamente. Tu ti impietosisci dinanzi ai tormenti che infliggo a questi esseri. Ma non pensi a quello che soffro io e nell'atto stesso che tormento queste creature. Padre Domenico. Quale soddisfazione ne ricavi? Maligno. Te l'ho già detto. Nessuna. Non guadagniamo nulla nell'infliggere del male. Noi ci troviamo come su una sabbia cedevolissima. Più operiamo il male, più vi affondiamo. Padre Mondrone. Allora smetti di tormentare queste povere creature e vattene nella tua dimora, visto che anche a te Dio ha provveduto una dimora. Maligno. Non è lui che ce l'ha data. Ce la siamo fatta noi stessi. Padre Mondrone. Hai ragione. Dio. Nella sua bontà. Creandoti non poteva volere per te una simile dimora. Dici bene che ve la siete fatta voi stessi. È per colpa vostra che siete diventati bersaglio dell'ira e della giustizia di Dio. Così. Mentre per tutta l'eternità noi loderemo la sua misericordia. Con lo stesso Osanna canteremo la sua giustizia contro di voi. Maligno. Quanto sei sadico. Fu una risposta immensamente rivelatrice che mi freddò. Lasciandomi profondamente pensoso. Quale deve essere stata la malizia del peccato di questi angeli? Se Dio, che è così infinitamente buono, li ha colpiti con tanta giustizia. A questo punto pensai di ritornare sulla domanda dei rapporti con cui demoni e dannati stanno tra loro nell'inferno. Si conoscono. Si parlano come facciamo noi. Si fanno compagnia. Anche questa risposta fu tremenda. Ognuno di noi è un solitario. Tutto e solo concentrato nell'amarezza della propria dannazione. In un pianto senza fine. Ognuno è col suo inferno. È il suo inferno. Per l'eternità. Ripeteva così la risposta già da Tami in precedenza. Poi, con un urlo disperato. Svani. Decimo il diavolo. Vincitore sconfitto. Maligno. Questo è l'ultimo incontro che sono costretto ad avere con te. Ma non è detto che non ce ne possa essere qualche altro deciso di mia iniziativa e senza certe cautele impostemi da quella odiosa tiranna. Ti potrò cogliere di sorpresa. Quando meno te l'aspetti. Hai già parecchie cose da pagarmi. Non credere che io abbia dimenticato le spruzzate di acqua santa che mi hai buttato addosso per allontanarmi da quel tale. Questo discorso esplose improvviso e minaccioso. Ma senza i soliti segni premonitori. Mentre neanche a farlo apposta stavo leggendo un piccolo libro intitolato L'era del diavolo di un autore tedesco. Il tono del mio interlocutore era, come sempre, spavaldo e arrogante. Parlava anche questa volta con aria da gran padrone che dispone di tutto. Mentre era appena il miserabile esecutore di quanto gli era imposto dall'alto. Padre Mondrone. È l'ultimo incontro. Hai detto. E spero che sia veramente così. Intanto ringrazio colei che mi è stata sempre vicina. Come lo sarà anche negli incontri a sorpresa che minacci di prepararmi. A dirti la verità. Ne avevo abbastanza delle tue smargiassate e di tutte le bravate con cui pretendi di far tremare il mondo. Penso anch'io. E te l'ho già detto. Che il Signore permetta presto una grande ora di prova per la sua Chiesa. Ma verrà tutto sotto la sua regia e per liberarci dall'oridume che hai accumulato in essa. Sarai. Anche questa volta. Il suo spazzino. E se ci saranno vittime? Com'è prevedibile? Serviranno solo a rendere la Chiesa più bella e più santa. Maligno. Sei troppo sicuro. Tu aspetta che vengano i fatti. Sto preparando per voi cose spaventose. Scene di distruzione e di sangue mai viste. Sui pinnacoli delle vostre chiese. Al posto della croce. Sventolerà tra non molto il mio vessillo. Padre Mondrone. Anime ispirate ci hanno predetto anche questo. Ma sarà l'ultima tua grande parata da principe di questo mondo. Dopo interverrà lui e tutto crollerà su di te e sui tuoi seguaci. Maligno. Tu ti illudi. Sta cominciando invece la mia epoca. Trionferà la mia potenza di distruzione. Mi presenterò agli uomini senza maschera. Mi farò vedere quale sono. Perché tutti abbiano a tremare al mio cospetto. Padre Mondrone. Ma va là. Buffone. Non credi nemmeno tu a quello che stai dicendo. Tu sai bene chi è Dio. E sai che egli non abbandonerà mai l'umanità ai tuoi disegni di distruzione. Ti permetterà solo quel tanto che servirà per punirla dei suoi traviamenti e purificarla dalle colpe nelle quali l'hai trascinata. Ma non più di questo. Maligno. Illuditi. Illuditi. L'umanità si sta preparando da sé. Grazie alle mie invenzioni e alle mie spinte. A questo suicidio universale. La bomba al cobalto. All'uranio. I prodotti radioattivi della forza atomica. Polverizzeranno tutto in pochi istanti. Ogni germe di vita sarà distrutto. Padre Mondrone. E così tu regnerai su un immenso cimitero. Sarai il re dei morti. Mentre Dio è il Dio dei viventi. Infatti lascia vivere anche voi angeli ribelli. Vi lascia vivi perché siate i testimoni del suo trionfo sulla vostra folle ribellione. Vi lascia vivi perché vediate per tutta l'eternità noi uomini godere la beatitudine da voi perduta per sempre. Questo scambio vi scotta e vi tormenterà per tutta l'eternità. Espulsi dalla città di Dio. Vi siete dati da fare per costruire la città del diavolo. Un'effimera costruzione di carta pesta. Sgominati da Cristo. Vi siete dati un anticristo. Una caricatura del figlio di Dio. Per contraffarne le opere e scimmiottarne la potenza. Maligno. Perché non dici antagonista? Padre Mondrone. Ti farebbe troppo onore. Antagonista è chi? In lotta col suo avversario. Combatte a viso aperto. Tu. Con lui. Nemmeno ci provi. Perché sai che è infinitamente più forte. Con noi. Invece. Hai bisogno di ricorrere all'inganno. Alla menzogna. Con gli ingenui ti presenti come una superpotenza. Con gli intelligenti cerchi di cancellare le tue tracce. Hai bisogno di lavorare nell'incognito. Ricorri all'astuzia di non farti credere quell'essere malefico che sei. Tutto quello che può riuscire a far dimenticare la tua esistenza e la tua opera lo metti in moto ricorrendo a mille astuzie. Sei riuscito a convincere anche le intelligenze più vigili che non c'è nulla di male in tutto quello che l'uomo può fare. Secondo delitto è visto come dimostrazione di libertà ed esercizio del proprio potere. La psicanalisi. Dichiarando il peccato una malattia. Libera l'uomo da ogni responsabilità. I tormenti di una coscienza turbata da colpe sono visti come residui di tabù provenienti da vecchi divieti non motivati. Altrove. Per convincere gli uomini del tuo strapotere. Sfrutti la propaganda del terrore. E il prestigio che godevi una volta tra i popoli barbari lo stai esportando. Per via di superstizione. Tra uomini di raffinata ma stupida civiltà. Molti seguaci riesci a tenerteli col terrore della tua abissale malvagità. Sei riuscito a ispirare degli autori che, quando non ti rappresentano come un personaggio simpatico, suscitano ondate di odio contro Dio, che nel condannarti avrebbe abusato della sua potenza per avere in te un avversario da tormentare. Questo per giustificare l'implacabile odio che nutri contro Dio e contro tutte le sue creature. Maligno. Mi accorgo. Da questo tuo discorso. Che credi di conoscermi a fondo. Ma ti sbagli. Nemmeno ti accorgi delle scempiaggini che la tua presunzione ti fa dire. Tu di me non conosci quasi nulla. Per te e per tutti gli uomini io resto un mistero. Padre Mondrone. Forse non riesco a dir tutto del tuo essere e della tua natura. Ma tu sai che ti conosco quanto basta. So che per capire bene il tuo agire malvagio devo risalire alla tua origine e alla tua natura così come sono descritte nella Bibbia. Specialmente nel Vangelo. E nella tradizione cristiana. Queste per me sono le sole fonti credibili. Le sole per capire l'origine dei male. Eri una creatura prediletta di Dio e sei divenuto un ribelle. Eri un angelo e sei divenuto un demonio. Eri un essere di luce e sei diventato spirito delle tenebre. Questo sei tu. Puoi camuffarti finché vuoi. Ma le tue caratteristiche sono queste. Una creatura perduta per sempre. Un essere senza redenzione. Cristo. Che è morto anche per il peggiore degli uomini. Non ti ha riservato una sola goccia del suo sangue. Secondo tuo destino è la dannazione eterna. Passerà il tempo in cui ti è permesso di metterci alla prova e di farci dei male. Ma non passerà l'eternità che già pesa tutta intera sul tuo essere e nella quale resterai murato per sempre. Maligno. Hai detto tutto. Padre Mondrone. Credo. Invece. Di aver detto molto poco. Ma non mi importa saperne di più. Ne ho quanto mi basta per odiarti e stare in guardia contro le tue arti. E soprattutto per pregare. Pregare molto per coloro che cedono ai tuoi inganni. In questo so di non essere solo. Ci sono nel mondo milioni di anime che lottano contro di te. C'è con noi Gesù e c'è la sua madre benedetta. Soprattutto abbiamo in mano nostra la possibilità di rinnovare ogni giorno il sacrificio redentore di Cristo. Basta questo da solo per annientare la tua effimera potenza. Può bastare una messa per strapparti milioni di anime. Maligno. Sempre le solite chiacchiere. E così non mi hai permesso di dirti quanto volevo. E va bene. Parleranno i fatti. Padre Mondrone. Ho già risposto ora e altre volte alle minacce dei tuoi fatti. Non mi fai paura. c'è con me colui che è più forte di te. Se dovrò soffrire, lo benedico, perché so che alle mie sofferenze